in questa città, come in tante altre città italiane, purtroppo il diritto alla casa è diventato strutturale, un problema sulle questioni abitative anche a Bologna, e naturalmente le risposte che l'amministrazione ci dà non possono bastarci, perché abbiamo avuto anche un incontro con la vice sindaca Tuenzi, che ci ha illustrato il piano abitativo del comune, ma senza darci nessun tipo di rassicurazioni né sui tempi né sui finanziamenti che andranno a mettere in campo. Quindi noi naturalmente continuiamo a chiedere alcuni punti che sono significativi per noi dell'Unione Inquilini, che sono il censimento delle case naturalmente di appartenenza pubblica, come quelle di ASP e dell'ERP, e che sia attuato un vero e proprio piano abitativo per risolvere la questione che è strutturale ed è una questione che è imminente. Quindi le persone non possono aspettare 10 anni che vengano completati i progetti, ma hanno bisogno adesso di soluzioni abitative. Prima fra tutti anche la questione degli studenti. Infatti saranno con noi gli studenti di Link e di tante altre associazioni che lamentano proprio il fatto del caro affitti e della turistificazione della città. Proprio oggi si svolge il secondo appuntamento dell'Assemblea per la Casa, promossa insomma sempre dal Comune. Voi prendete parte a questa iniziativa? Sì, noi partecipiamo a questa iniziativa perché proprio vogliamo far conoscere le nostre proposte, faremo avere anche per scritto e di scritto le proposte che abbiamo chiesto alla Clemsi nel nostro incontro, e naturalmente faremo un intervento proprio per avere un certo tipo di riscontro. Anche perché oggi al presidio chiederemo alle realtà che stanno partecipando a questo presidio di costruire un osservatorio popolare sulla casa, perché venga monitorato anche l'andamento della questione casa a Bologna e che inizino a uscire anche proposte per l'amministrazione che vada in un certo indirizzo, perché non ci possono soddisfare le questioni che anche l'amministrazione dice di ricercare continuamente soluzioni sul mercato e sui privati. Buona parte delle proposte vanno in questo senso, noi non siamo d'accordo, siamo d'accordo per sviluppare il pubblico, siamo d'accordo per cercare di incentivare anche un certo tipo di cooperazione tra gli abitanti e tra gli inquilini, e naturalmente chiediamo, come sempre da anni, che vengano riutilizzati gli immobili pubblici sfitti per essere rimessi in riutilizzo per edilizia residenziale pubblica, che vengono trasformati in questo senso. A proposito dell'urgenza che citavi prima, la settimana scorsa sono stati diffusi i dati per i bandi per il sostegno all'affitto e 3.000 persone rimangono escluse. Esatto. È proprio questo quello che stiamo dicendo, cioè stiamo dicendo che infatti noi anche come sindacato degli inquilini stiamo andando verso alcune proposte, cioè le proposte per esempio della introduzione dell'equo canone, uno perché l'inflazione, come stiamo vedendo, si sta mangiando buona parte degli stipendi e non è possibile che un affitto ti venga a costare quasi il 40-45% del proprio stipendio o di un 50% di un nucleo familiare. In questo senso il governo Meloni ha tagliato anche il fondo per l'affitto della morosità incolpevole, che dava un certo tipo di sollievo, e questo va a ulteriormente a peggiorare le condizioni degli abitanti, perché non si possono trovare neanche quel tipo di sgravamento che poteva venire con il fondo affitto. Noi naturalmente anche a livello nazionale stiamo combattendo perché il governo ci ripensi e che vengano restituiti questi fondi, perché bisognerebbe che ce ne fossero di più, non che vengano tagliati. Anche in questo senso purtroppo si segue l'andamento di questi anni, cioè tutte le amministrazioni del governo hanno sempre tagliato un certo tipo di sovvenzionamento, peggioravano le condizioni. In più vediamo che i bassi salari purtroppo continuano ad avanzare e molte persone, tra cui molti giovani, non riescono a pensare di potersi fare una famiglia perché non hanno la casa. Molti immigrati non riescono ad avere neanche il permesso di soggiorno, perché se non hai la casa non hai il permesso di soggiorno, e quindi logicamente questo va a influire sulla vita di molti cittadini bolognesi. Ma tutto questo abbiamo fatto delle proposte e cerchiamo risposte da parte della politica, che devono venire nel più breve tempo possibile, perché la questione sta